15.05, benvenuti a tutte e a tutti e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sta iniziando Tracce di Cinema, programma di musica e di cinema e di musica, sì, di approfondimento e di cazzate, soprattutto dalla sottoscritta. Ciao Ottavia. Ciao Fede, tutto bene? Io bene, tu? Tutto a posto, okay. Tutto a posto. Io oggi bevo un po' d'acqua. Sì, io invece oggi sono preparata ma non abbastanza e il film non l'ho visto. Neanche io. Non sono riuscita a trovarlo da nessuna parte, però ho trovato un po' di notizie. A proposito, avremo un ospite che ce ne parlerà, ma soprattutto ci parlerà della musica di questo film, che è fondamentalmente hip hop. Sono le radici proprio. Sono le radici, ma non proprio, perché era già 1984 quando è uscito, e le radici sono, sì, un po', sì, più, sì, sì, un po', insomma, risalgono, insomma, a qualche anno. Sono i primordi. Sì, 1977 più o meno, insomma, nasce la cultura e la musica rap nei sobborghi del Bronx, con tanti personaggi che, insomma, hanno fatto anche poi delle carriere anche un po' mainstream dopo i loro esordi. Comunque, insomma, ce ne parlerà meglio il nostro ospite, della musica, anche del film che ha scelto lui, che sarà Militant A. Sì, e il film è Beat Street. Il film è Beat Street, un film, come dicevo prima, del 1984, diretto da un regista che ha fatto per lo più nella sua vita televisione, molto bravo, grande conoscitore però di, insomma, grande amante della cultura hip hop, Stan Laatan, uscito, pensa Federico, nello stesso periodo di Flashdance e un altro film proprio sulla cultura hip hop che era Breakdance, ma al contrario di questi due film, che, insomma, no, Flashdance proprio non c'è, c'era soltanto una piccola scena all'interno del film in cui c'erano questi ragazzi che ballavano in mezzo a una strada alla breakdance, mentre l'altro era più, diciamo, proprio sulla cultura di questo genere di danza. Questo film è un po' più, diciamo, di spessore rispetto agli altri, perché partendo da una vicenda di bande di ballerini, appunto i Beat Street Breakers e i Rockers, che si contendono il predominio e la popolarità nella periferica zona newyorkese del Bronx, delinea abbastanza, insomma, quelle che sono la storia, le origini e le peculiarità, insomma, di quel periodo, anche se, insomma, lo fa con una narrazione forse un po' debole, però, insomma, il film è interessante anche da un punto di vista documentaristico, semi-documentaristico, perché tra le pellicole dedicate alla cultura hip hop è stato detto che questa è quella che rappresenta meglio lo spirito street style dei giovani newyorkesi degli anni 80, discepoli di questa nuova tendenza che cambiò per sempre il modo di concepire e realizzare la musica. E così io inizierei a partire con qualche pezzo, e sperando che il nostro ospite arrivi presto. E non abbiamo una scaletta oggi, Fede, la scaletta c'è, però ecco, non l'abbiamo arrangiata secondo no. Una io poi logica. A lui ho proposto, quando verrà, di sceglierle insieme mentre facciamo la trasmissione. Se arriva, no? In tempo, che non le abbiamo messe già tutte quante quelle che avrebbe voluto mettere lui volentieri. Comunque, bene, iniziamo. Tra 5 minuti dovrebbe essere qui. Vediamo se è puntuale. Iniziamo con la musica. We'll be right back. Arthur Baker con Breakers Revenge. Eh sì, perché Arthur Baker, Baker è uno degli, degli autori che ha curato la colonna sonora insieme a Webster Lewis e Harry Belafonte, il re pensate un po', il re del Calypso, che è stato anche il produttore di questo film, mentre Arthur Baker è stato uno dei più importanti DJ e produttori di hip hop degli anni Ottanta. È nato nel 1955, ha lavorato con artisti come Afrika Bambaataa, che è anche presente in questo film, non solo con la sua musica ma anche fa un cameo, e Planet Patrol, e negli ultimi anni, no, proprio negli ultimissimi, però è diventato anche produttore di dei nostri amatissimi New Order, che abbiamo suonato poco tempo fa, e poi ha curato insomma anche dei remix per proprio delle star della musica come Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, insomma altri, Diana Ross, anche Pet Shop Boys, pensa Fede. È arrivato il nostro ospite? No, sembrava lui, ma non è lui. Non è lui. Per cui possiamo anche proseguire. Allora, io voglio dedicare il prossimo pezzo a Vasco, che ha preso il primo 6 più di tutto l'anno, l'unico 6, l'unica sufficienza di tutto l'anno, ma soltanto perché lui è troppo avanti rispetto a questi professori. Sì, non lo capisco. Non lo capiscono. Quindi vai, va bella così, dagli è tutta Vasco. Il prossimo pezzo è per te. Africa Bambaata and Soul Sonic Force, questa era Frantic Situation. Frantic Situation era il 1971, siamo nel Bronx meridionale. Kevin Donovan è un giovane nero che, fondando la sua gang, i Savage Seven, mette la sua firma su una mini rivoluzione nella storia della controcultura politica americana e diventa sostanzialmente il sindaco ombra della periferia di New York. Nel 1972 la visione di un film, Zulu, è un viaggio in Sudafrica, cambiano la vita di questo giovane, e Donovan, rientrato a casa, adotta un nuovo nome, Africa, come la terra deturpata e vituperata in cui affondano le sue radici e la cui conoscenza gli ha aperto gli occhi, e Bambaata come il primo ribelle della dittatura bianca in Sudafrica a inizio secolo. Nel 1973, un anno dopo, fonda la Zulu Nation, una sorta di comune filosofica che vuole diffondere l'impegno politico-sociale nei testi del nascente rap, che condanna ogni forma di credenza o religione, che mini l'autonomia di giudizio e ragionamento di ogni singolo individuo, spronando invece l'esercizio della ragione e del dubbio. Nel giro di pochi mesi, decine di graffitari, MC, DJ, B-Boys entrano in Zulu Nation, attratti dalla prospettiva di fare della loro arte un veicolo di trasmissione autentico o una forma di testimonianza. L'hip hop come denuncia sociale, come espressione del disagio di una periferia abbandonata a se stessa, come musica impegnata, nasce proprio con lui e con Zulu Nation. Nel giro di una manciata di anni la sua idea di hip hop diviene niente meno che il paradigma caratteristico del genere stesso. Nel 1977 l'hip hop dilaga, si propaga a macchia d'olio nei sobborghi di tutte le metropoli statunitense. Rapper's Delight della Sugar Hill Gang entra nella top 40 delle Billboard, Grandmaster Flash viene eletto a maestro, il Run DMC di lì a breve avrebbero pubblicato il primo LP hip hop, e mentre però il processo di massificazione dell'hip hop sta prendendo il via, Africa e un gruppo di eletti appunto ha creato Zulu Nation e pubblicano per l'etichetta di Paul Winley il manifesto in musica della comune, Zulu Nation Throwdown, oggi il brano di culto dell'old school tutta e magistrale saggio della relazione tra funky e hip hop. In questo periodo Bambaata scopre un affiatamento artistico inusuale e fertile con alcuni dei suoi scudieri, fra cui DJ Jazzy J, che sentiremo nei prossimi pezzi, 4 MC provenienti da Southview e tre dei primi profeti della filosofia Zulu Nation, Mr. Biggs, The Glowe e Pow Wow. Con l'ingresso effettivo di Africa il collettivo si dota anche di un nome tutto suo, Soul Sonic Force. Poi nel 1983, in pieno fermento di hip hop, raduna appunto questo gruppo, regista Planet Rock agli Intergalactic Studios con Arthur Baker, che abbiamo ascoltato prima, in cabina di produzione, e i futuri Washington Squares, che fanno i coristi. Frantic Situation è il singolo che segna nel 1984 l'incontro fra Bambaata, un po' retro, innamorato del funky e della disco music, ma tutto sommato con uno stile completamente nuovo. Se l'hip hop ha avuto il suo Arthur Rimbaud, quello è stato proprio Africa Bambaata, vuoi per la portata totalitaria e senza confini delle meraviglie del giovane gangster, vuoi per il suo porsi perennemente in direzione contraria, vuoi per l'esaurirsi precoce del suo bacino creativo. Enorme però la quantità di remix, cover, sampling dei suoi pezzi ad opera di artisti provenienti dalle esperienze musicali più disparate, che hanno fatto un mito fumoso ma resistente. È considerato il più sfuggente, inafferrabile, istrionico e influente fra i padri dell'hip hop. Questa bellissima biografia, naturalmente non è mia, proprio perché è bellissima ma l'ho estratta da un fantastico sito da cui io spesso attingo, Federico, che si chiama Onda Rock, dove ci sono dei bravissimi critici, e mi è piaciuta talmente tanto che non l'ho voluta citare, ma l'ho proprio voluta riproporre, perché era proprio, secondo me, ben fatta. This is the story you shouldn't be knowing about how we couldn't make it on the microphone. Wild man, we came here to show down today and play the beat right, so let's do it. We going to rock it, rocket tree, rocket 4 or 5 times. Are you ready to go, gang? Let's do it, here we go. Uno, dos, tres, cuatro. Yes, we are the 44 MCs, and we're all the worst rappers that ever could be. We all got together to run this rap. We know we're bad, we know we're whack. We tried to write lines, but they were wrong. But now we got you rapping, cause that beat is on. Introducing to you, he's a part of the crew. We call him Bubblehead, and we know you will too. They call me Bubblehead because of my hat. I never take it off, cause I got the fight that I say under my hat. Mine is my head, and when I live down, it slips off the head. When it hit the floor, it bounced 3 times, and that's the way I think of this rhyme. Sometime, you know, I forget in my rap, but when I hit it with the bat, it come right back. Once on my way to play football, I slipped on the rock and took a terrible fall. When I woke up, I had a splitting headache. I smoked some carrot gold and I started to break. So from that day, I knew how to rap. I had more than a big head under my cap. So if you don't think you know how to rap, just fall on your head or hit it with the bat. Oh. Say, man, are you ready to throw down now? See. And play the beat right. I'm ready now. So put the bass in the place. Right. Ha. Okay. Testing. Here we go. Testing uno dos. Testing uno dos. Okay. My name is Papo, I know I'm cool, because in my bathroom I got the swimming pool. And when I get funky, I got to take a stroll. My bad swimming pool turns into a tub. When I get out the tub, I be nice and clean and squeaky. I put on my new cologne, it's called something freaky. I went downtown to try my rap. I said, baby, I got my face slapped. I got on the floor to do the break dance. I spun on my knee and burned a hole in my pants. And when I start spinning, and I look down, my pants were still burning on the ground. But I kept my cool, I was no fool. I just go on and get in my swimming pool. Ah, oh. Oi, baby, whoa. You want to go swimming with me? Swim with you. What you think I'm going to swim with you for, child? What's all that rap? This is rap music, you know. Rap music. Oh, this is rap music. Excuse my butt. Listen, y'all, I got things to do. I ain't got no time to be rapping with you. But since I'm here, I might as well talk. And breaking my new jeans and packing smile walk. I put my hands on my hips, I let my backbone slip. I got the scallop on my eyes and gloss on my lips. And I'm going downtown to have a real good time. I'm gonna do a rap with some friends of mine, like Debbie, Shasha, and Lady B. So get dressed, Miss Bang, cause you coming with me. I got some friends, I want you to meet. And I know you're gonna laugh them cause they're sweet like me. That's right. Sweet like me. What you say? You don't think I'm sweet, honey? I think I'm sweet. Look, love, boo. Loving and sliding. Hey, Bubblehead, what's happening, y'all? What y'all doing? You don't y'all rapping? Like that. Can I throw down? Hey, I'm getting out of here. What that fool you got with you, man? Wait a minute. Who's that? Oh, no. I like your earrings. Oh. I like your chin. You got muscles. Oh, muscles like I don't care what you like. Get away from me. You whipping fool. I said, hey everybody, do you know me? My face is in the papers and on TV. I know you know my name cause it's easy to spell. So listen, wimpy fool, to the story I'ma tell. I hate when people thinks I'm wild just because of my jeans and my new hairstyle. But I'm a real nice guy and I want you to know. So sit the hell down and hear how it go. I like picking daisies and taking them home. I push my feet in the creek with no shoes on. I like shaving my head 100 times. I like greasing my face until it shines. I like wearing my socks until they break. I like eating 8-1 without no steak. But there's one thing that makes me mean. Worse to seeing that whippy fool in those tight jeans. I pity the fool who steps on my feet, cause I knock him to the ground and I do it to the beat. And if you step on my coins, I do it again. I beat you the whippy fool, and the whippy fool friends will say ho. Say whippy fool. Say whippy fool friend. Now say it like me and do it again. Say ho. Say whippy fool. Say whippy fool friend. Say we're having a party, so get out your seat. Tell me where you don't step. Ooh, how to party, so you know where to go. You can get in the pool with who? You know that. If you're out to party and the DJ's rock, what do you do? Hit them real hard. When it's time to get down and dance to the beat, I'll be on the floor with you cause I'm thank you. I love you all. I like to thank everybody for making this record. And I like to thank y'all for buying this record. And I like to thank Debbie and Shasha and Lady B. Lady B kinda big, but I'ma thank her anyway. And I want to thank my sister for letting me hold her clothes and her blouses. And I want to thank my mother and my father, because they love me for who I am. Thank you. What do you think you are? Thank you. Say, sweetie, it's about time you backed away from that microphone. Back away. You wasn't telling me to back away last night, and I was you, mister. Wait a minute now. All right now, that's it. The party is over. It's through. The party, y'all done upset me. I tell you, boy, listen, women fool, you don't know nothing about me, and you never will. Now the party is over. Everybody shut up. It's time to get out of here. Get your coats, get your hats, get your sneakers, get everything that belongs to you, and get out of here. I said shut up. Shut up! Ralph Rolli con Phony 4 MCs, questo è dalla colonna sonora di Beat Street di Stan Lathan, Stati Uniti, 1984, anni in cui c'era un movimento studentesco qui a Roma, e anni che preparavano quello che sarebbe stato poi il movimento della Pantera, che ha visto muoversi e muovere i primi passi dell'onda rossa posse, poi lì che cominciava l'avventura dei poi futuri assalti frontali. Militanta è qui con noi nuovamente. Ciao Federico, ciao cara. Grazie di avermi invitato e di poter parlare. Mi avete chiesto appunto, dici che di quale colonna sonora parliamo. Esatto. Io stavo lì che ci pensavo, tipo, che colonna sonora parliamo. Poi a un certo punto, guardando lo scaffale dei dischi, scaffale chiuso, mm-hmm, che non apro più da tanto perché purtroppo non c'è. Quindi non ci aggiungi dischi. Cose? Non c'è, no, ormai io non compro più dischi dal 91, così. Dischi, figura di musica è proprio il mio pane. Però proprio come. Come oggetto. Come oggetto, ai tempi però me te dico, compravo tutto quello che usciva, e soprattutto nel 1984, eccoli qua, ve l'ho portati proprio. Sì, è vero. Per farvi vedere. Copertina gialla, copertina rosa. Cioè, sono i due vinili di Beat Street, che è la colonna sonora del film Beat Street, che tra l'altro ai tempi chiaramente non c'era tutto quello che c'è adesso, tutto il bombardamento di informazioni, di immagini, di cose, quindi c'era sto mito, e arrivò prima la colonna sonora del film, quindi noi sentivamo sta colonna sonora e sapevamo che c'era un film mitologico assolutamente da vedere. E poi finalmente siamo riusciti a vederlo, non so, uscì, ma chiaramente in forma molto ridotta, e siamo riusciti a vederlo appunto nella sala, e fu un grandissimo innamoramento, perché questo è un film che parla praticamente della prima scena hip hop. Tra l'altro si sente appunto dalla musica, che ai tempi regnava il produttore appunto Arthur Baker, che non c'erano nemmeno i campionatori a quei tempi, erano proprio le prime cose elettroniche, proprio elettroniche, sì, di hip hop. Ma soprattutto era tutta la scena, quel ribollire di scena artistica e sociale che poi ha dato appunto luogo all'hip hop come lo conosciamo adesso, e che è stato amato in tutto il mondo. Quindi c'erano le feste illegali dove si vedevano i ragazzi che si cominciavano a sfidare, c'erano i primi graffiti sui vagoni che si appunto li andavano a fare, e poi se li andavano a riguardare con dei messaggi che lanciavano sui treni, cose bellissime che veramente creavano un'attrazione da parte di tutti noi, insomma, che stavamo lì che guardavamo sta roba. Era l'84, considera che pure da noi, cioè, non c'erano ancora i centri sociali. Cioè erano finiti gli anni 70, e quindi c'erano i compagni in galera, tutti certi tipi di politica che ormai certi linguaggi non andavano più, allo stesso tempo ancora non c'erano i centri sociali, quindi era proprio è stato un momento di passaggio, e questo film è stato molto molto importante per noi, ci ha fatto capire delle cose che poi abbiamo messo in pratica anche noi. Certo, poi andando pure, magari avendo la possibilità, abbiamo come dovrebbero fare tutti i ragazzi, di andare poi in giro a Londra, è stato pure negli Stati Uniti, in Giamaica, insomma, cose che poi abbiamo riportato tutti qui nelle strade romane. No, ma poi stavo leggendo un po' di cose sulla rete, e Ho letto una cosa bella che a proposito del film, che di solito noi poi parliamo sempre di una New York un po' patinata, no? Durante la trasmissione, no? Un po' convenzionale, un po' hollywoodiana, parlando insomma di cinema e musica. Invece in questo film il regista ci mette in un luogo veramente ai tempi un po' misterioso, ecco, che è quello del Bronx, che era un po' inedito al pubblico delle sale cinematografiche insomma, italiane e europee. Ed è un bel ritratto anche della vita di quartiere, così ho letto, e che di solito del Bronx, che di solito veniva agli onori della cronaca soprattutto per fatti di violenti, invece perché, in questo caso infatti, poi tra l'altro quello descrive periodo, la parte creativa, sì, era un periodo proprio del Bronx più malfamato, che veniva dagli anni 70, dalla distruzione proprio sociale che c'era stata, e anche dalla guerra tra bande che c'era stata, e l'hip hop aveva proprio in quel momento dato il meglio di sé, cioè proprio espresso il fatto che poteva essere la comunità che invece di sfidarsi uccidendosi si sfidava a livello creativo e artistico, ballando, cantando, mettendo la musica, colorando i muri. È stato un momento talmente eccitante che poi infatti tutti i produttori, poi il produttore del film è stato Harry Belafonte, no? Sì. Tutti i vari produttori, ma anche Malcolm McLaren che veniva, andavano proprio lì, andavano in pellegrinaggio proprio perché avevano capito che lì stava nascendo qualcosa di potente che non c'era dalle altre parti, quindi lo prendono e lo portano nei grandi locali, a Roxy. Infatti poi il film racconta proprio di questi ragazzi che vengono portati a Roxy, si esibiscono lì. Sì, e poi insomma, oltre a fare questo bel ritratto insomma di questo quartiere difficile, compare tutta l'aristocrazia, no? Della old school newyorkese, da Africa Bambaataa, che appare come ho letto nell'ultima parte del film, no? Fa proprio canta in un locale. E poi ci sono Grandmaster Melly Mel, sì. Insomma tanti altri icone proprio, cioè, importanti, però anche un po' meteore, no? Beh, diciamo che sono quelli che hanno tolto le castagne dal fuoco, poi sono arrivati altri e se le sono mangiate, come dire. Cioè, sono quelli pionieri. Sono i pionieri, quelli che poi non hanno fatto proprio vivere i soldi, che poi dopo sono arrivati con il rap. E tra l'altro il film, magari sotto alcuni aspetti, è pure un po' lento. Certo non è. Adesso ci stanno stanno facendo delle serie web che riprovano. Get Down, l'hai vista? No, Get Down non ho avuto ancora. Beh, da paura. Sì, sì. Che infatti è l'ambientazione di allora, però girata come sanno girare adesso, mentre questo è un film, diciamo, lento su alcune cose, un po' goffo su alcuni montaggi, però è veramente autentico peraltro per l'ambiente. Luca, che vorresti ascoltare? Abbiamo preparato qui The Treacherous Tree, DJ Lazy Lay, Grandmaster Melly Mel. Vabbè, Grandmaster Melly Mel chiaramente ce lo sentiamo. Us Girl ce l'hai? L'hai messo? L'hai preparato? Sì, c'è. Ci stanno tutti dei brani. Un po' più avanti, non è tra quelli numerati. Non è tra quelli numerati. Avanti, io vado avanti. Us Girl sono tre ragazze che cantano, che fanno, yes, che sono fortissime. Non è proprio un pezzo, è proprio un tipico pezzo un po' elettro, un po' che andava a quei tempi. Andiamo con loro. I ragazzi ballavano la breakdance. Sì. Guarda, Luca, noi abbiamo messo un po' di musica sperando di non mettere i tuoi pezzi preferiti, quindi siamo felicissimi che adesso scegli tu. Noi ragazze, questo è il pezzo. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Look is the one who can hold my policy. So, hey fellas, move on close, take me on a cruise and watch me float. Whatever my mind show me, I'm fresh and I will always let you know. Debbie D is set, Shyrock is the woman with the magical touch. I'm like burn the fire, you know I'm just too much. I wanna take you like a heat on the heat of the night. Romance is the move if your time is right. Get your back wet, all soaked in sweat. He says I'm the kind of brother he could never forget. Jeez, the lady recently to be the man in my life. You got to be my only, I'll always hold you secure in my arms real tight. Squeeze you real good till you feel just right. I have a heart of gold I wanna share with you and give you the type of loving that you never been through. And if you dig where we're coming from. Torniamo in diretta. E su queste note si sfidavano con la breakdance, con i primi passi di breakdance, cose che hanno veramente fatto, hanno formato generazioni di ragazze, di ragazzi in tutto il mondo. Senti, una curiosità mentre sentivo proprio questa elettronica di base a loro, la differenziazione dei termini rap, hip hop. Vabbè, diciamo il pane, ecco. Stai facendo l'ABC dell'hip hop. Vabbè, il rap fa parte dell'hip hop. L'hip hop è la una filosofia di vita, okay, che racchiude questo stile di vita che portarono i ragazzi proprio dei primi anni '80, che si vedevano, ballavano. Quindi c'è all'interno dell'hip hop c'è la breakdance, il rap, i graffiti, la cultura e, tutta, il DJ, la cultura tutta. È un contenitore, ecco. Sì, è il contenitore, l'hip hop, la filosofia dell'hip hop, sì, è il contenitore di comunque di portare al centro della vita queste l'arte. Quindi sì, poi secondo me mi piace proprio fare così, perché quelli erano dei ragazzi fondamentalmente destinati a essere degli emarginati, sì, sconosciuti, sì, e dannati proprio nella loro vita, e invece hanno fatto della loro vita un'opera d'arte, e questa è l'hip hop. E poi il rap è un po' l'acronico di Rhythm and Poetry. Esatto, no? Esatto, sì, sì. Il rap è quel tipo di parlata che ci avevano, che ai tempi non era neanche così sviluppata come poi lo è stato dopo. Infatti, ad esempio, in questo pezzo, cioè, c'era molto canto, e poi ogni tanto entrava il break e si faceva rap. Oppure c'era appunto l'MC, che era il maestro di cerimonia, che era quello che durante la festa diceva: oh, è arrivato, che ne so, è arrivato Melly Mel, è arrivato The System, è arrivato quello. Una sorta di conduttore. Sì, e faceva una battuta su questo e quell'altro, e tutti, insomma. E tra l'altro adesso ci sentiamo appunto Grandmaster Melly Mel and Furious Five, che erano tra i migliori rapper di quel periodo, e insomma si sente anche come ancora il rap era molto ruspante. From across the street, and Beat Street is a lesson too, because you can't let the streets beat you. Well, a picture can express 1,000 words to describe all the beauty of life you give. And if the world was yours to do over, I know you'd paint a better place to live, where the colors would swirl and the boys and girls can grow in peace and harmony, and where murals stand on walls so grand as far as the eye are able to see. I never knew art till I saw your face, that there'll never be one to take your place, cause each and every time you touch a spray paint can, Michelangelo's soul controls your hands. Then serenades of blue and red, and the beauty of the rainbow fills your head. Crescendo colors playing tune, man, why oh why you have to die so soon? Say one, two, three, four, and just let me know what you came here for, and just clap your hands, everybody, and let me know that I'm not alone. And if you knew my man when he was alive, scream it out to say, Ramon, Ramon. I'm talking about ashes to ashes and dust to dust, where the good die young is all thy must, cause that life must live, death must die, and the tears shall fall from the living eye. Tell me who's gonna dream the impossible dream of the beautiful cities and the islands' dreams, when your works of art brought into being all that the ghetto stopped you from seeing. Still life urban masterpiece, your chain mama getting on chains and walls, a $1 million gift only God released, and yet you got killed for nothing at all. So after this there'll be no more hard times, no more bad times, and no more pain. same. No more chump change, none of that bull. Just movies, museums, and the Hall of Fame. So all you hip-hops, get on up and let's take it to the top where we belong. To the age of the Beat Street wave is here. Everybody, let's sing along. In the sand, and the headlines say, man destroys man. Extra, extra, read on. Vai, insomma, Grandmaster Melly Mel, Beat Street Breakdown. Si sentono qui cose bellissime, proprio che saranno paradigmi dell'hip hop. Questo e se io e io le botte e risposta, sì, gli scratch, sì, fatto, sì, queste, sì, sono cose già proprio, c'era tutto. Sì, sì, hanno fatto proprio la scuola, proprio lo stile che dura ancora, capito? È bellissimo. Senti, a proposito di comunità metropolitana che da cui sorse l'hip hop, anche come esigenza di essere appunto, per l'appunto, comunità in una metropoli. Sì, e questo è quello che racconta appunto il film e che racconta il primo hip hop di cui noi ci siamo innamorati, cioè il fatto che poi attraverso la musica si creava una comunità che reinventava la vita e che il rap fosse uno o l'altro, l'espressione della comunità e anche al servizio. E quello che abbiamo appunto pensato noi di fare quando abbiamo cominciato poi qui a Radio Onda Rossa nell'88-89, i primi rap che facevamo al microfono, poi nel 90 uscì il disco e che poi abbiamo sempre continuato a fare. E una delle espressioni più belle che dopo tanti anni che ancora facciamo delle cose belle, e questo non è scontato per niente, bisogna sempre dare il massimo, il meglio, insomma, per cercare di non ripetersi mai, eccetera. Una delle cose più belle che c'è stata appunto il rap nella comunità, il rap nel territorio, è stata proprio la storia che abbiamo fatto qui a Via Prenestina con il Lago della Snia e con la canzone appunto Il Lago che combatte. Quello per me è stato uno dei top proprio della mia cosa, che tra l'altro domenica approfittiamo appunto di questo spazio, certo. E domenica faremo la festa, una grande festa iniziativa che noi abbiamo chiamato Mani Fest Azione, per tornare tutti insieme al Lago della Snia e fare il punto della situazione, chiarire insomma come stanno le cose, ritessere un discorso che poi perché poi il lago, quello lì, è il lago di tutti e grazie alla partecipazione di tutti ogni anno fa un pezzettino avanti, perché fino al prima del 2014 lo potevamo solo guardare dall'alto ed era anche a rischio che lo prosciugassero e gli speculatori che avevano fatto tutta, certo, la cosa che poi, certo, vabbè, è lungo. Poi invece la partecipazione di tutti e la lotta appunto del forum, soprattutto del parco dell'energia, hanno spinto il comune a renderlo, a realizzare l'esproprio, a renderlo pubblico, hanno stanziato 400.000 euro per i lavori e per aprirlo, cosa che poi dopo, l'anno dopo, invece questi 400.000 euro sono stati dirottati per il parcheggio del Giubileo della Misericordia. Questo magari tanti gli è sfuggito, quindi praticamente quei soldi che dissero in pompa magna per tutto la spinta di tutti non furono mai spesi per i lavori del lago, quindi per un anno ancora rimase chiuso. Poi l'anno dopo ancora il forum si è assunto la responsabilità di aprirlo tutti i giorni, quindi adesso è un anno e in questi giorni c'è, diciamo che si festeggia un anno dall'apertura tutti i giorni, da mezzogiorno al tramonto del lago, grazie al forum. Quindi è aperto in modo appunto autogestito, forum che ha fatto anche i primi lavori per renderlo più vivibile. Quindi domenica invitiamo tutti quanti a partecipare, sarà una grande festa dalla mattina, proprio una festa popolare tutta la giornata, un incontro popolare con tutti, appunto tutte le età, dagli anziani, i bambini, i ragazzi, tutti quanti, tutta la giornata, la mattina ci stanno le cose, picnic, tre punti ristoro, 15 gruppi poi sul palco che per un grande concerto. E quindi è importante esserci tutti quanti, perché ogni anno facciamo un pezzo avanti. Adesso dobbiamo spingere la regione Lazio a dichiarare tutta l'area monumento naturale. Palazzinaro amaro, sei un palazzinaro baro, per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro, al funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo vedere il nostro lago naturale.

e sul muro, cioè, stava completamente con gli occhi di fuori, ho detto che cosa, ma che è sta roba, non ci poteva credere. Oh, ma tutto quello che tocca negli assalti frontali diventa poesia. Grazie Ottavia, cioè sei troppo buona. No, senti, no, comunque sta canzone è stata qualcosa di incredibile, che è uscito veramente, ha fatto boom, è stato bellissimo. E ti ripeto, infatti quando ricreare queste situazioni di rap con la comunità è proprio il senso di tutto quello che facciamo. Diventa poesia, anche perché a me mi stanno arrivando tantissimi messaggi da amici che saluto, Valerio, Vittoria, Francesco, tutti quanti all'ascolto per Militant A. Senti Luca, avevamo cominciato con te pochi mesi fa per l'uscita del tuo disco, abbiamo fatto una bella chiacchierata qui in radio, oggi per parlare di questa iniziativa alla SNIA, sai che per il radioteatro ho in mente la tua lettura dei tuoi testi con base musicale, prima o poi la facciamo, sì, anzi sì, spero sì, prima sì, dell'estate. Tanto fra un mesetto e mezzo così ristampo il libro mio che è uscito 3 anni fa, okay, quello sulla scuola, magari quella è un'occasione, oppure soli contro tutti, so che c'è il 40 annale della radio, pure che ristampiamo sì, il disco di Batti il tuo tempo. Insomma, ci sono delle circostanze importanti, varie cose. Non so se ho svelato una sorpresa, no, non credo. Se non la sveli tu, chi la deve svelare? Vabbè, comunque, che vi devo dire? Grazie. Ripetiamo l'appuntamento pure di domenica. Domenica 23, dalla mattina al tramonto, il lago è aperto a tutti quanti, un palco in riva al lago, appunto, che ci saranno tantissime musiche, tra l'altro poi di vari generi, e tante voci di battaglie che raccontano appunto le lotte ambientali e per la salute che si stanno facendo in tutta Roma, e quindi ci vediamo tutti domenica. Manifest, azione, ingresso via di Portonaccio, lago ex Nia, monumento naturale, il 23, domenica 23. Senti, allora ci dà appuntamento per uno dei prossimi giorni, o martedì o giovedì. Ci lasciamo con, avevamo detto, Juicy con Beat Street Strat. Ci diamo appuntamento invece per Tracce di Cinema giovedì prossimo, sempre in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ascolta la diretta, e sempre dalle 15 alle 16. Grazie a Luca Militant A, e ci vediamo domenica, e a presto. Ciao.